avvistamenti, musiche popolari e tradizioni popolari dai luoghi del festival in linea d'aria. Salve a tutti, avvistamenti per In Linea d'Aria. Questa voce è la voce di Giovanni Passariello e di fronte c'è il carissimo, il collega. Amico, possiamo dire ormai. L'umbro. Dai, insomma, non amico, sì, non diciamo. Muoviamo la nostra relazione, Silvio Impegnoso, e qui con noi c'è Enzo. Il signor Enzo, cognome? Abbondanza. Enzo Abbondanza, signore e signori. Enzo Abbondanza, che è qui per la nostra rubrica avvistamenti, in veste di musicista, di organetto, ma Enzo non è soltanto un musicista, è anche lavoratore per la protezione civile di Cirigliano. Dove e ci noi troviamo in questo momento? Siamo proprio a Cirigliano, dopo un lungo viaggio. Perilloso, grazie al GPS che ci consiglia sempre di fare strade non sterrate. Percorribili forse a dorso di somaro, insomma, ma non certo con una Fiat Multipla di Giovanni Trono. Grazie comunque a Giovanni Trono e Anna Gesualdi per l'autovettura, che comunque ogni tanto ci lascia qualche pezzo, ma questo poi ne racconteremo più in là, alla fine del festival. Enzo, grazie della tua presenza e benvenuto a Radio Live. Benvenuto, e ti volevamo chiedere da quanti anni suoni l'organetto? Allora, sono andato un anno e mezzo a scuola e mi ha insegnato rock cricket. L'organetto è uno strumento tipicamente lucano. Raccontaci un po' la storia di come tu sei venuto a contatto con questo strumento, come mai hai cominciato a suonarlo? A me mi piaceva da piccolo. E infatti noi già abbiamo fatto altre interviste e abbiamo anche ripreso dei piccoli concerti di ragazzini sia ieri a Pietra Pertosa che a Campo Maggiore. Abbiamo incontrato dei bambini di 10-12 anni che suonano l'organetto e ci chiedevamo appunto come mai da così giovani si cominciasse a suonare l'organetto e non un altro strumento. Sai la risposta? Sai dirci come mai? A me l'organetto mi piaceva da sempre, da piccolo. Ma l'hai visto suonare da qualcun altro, qualche tuo parente? No, ho visto dai complessi che venivano qua, portavano sempre l'organetto, così mi è piaciuto. E di solito dove lo suoni? Magari anche tipo a alle casa. Feste, per a dire, casa a casa? A casa. Ma in pubblico, non so, magari qualche festa, qualche cosa capita? Qualche volta. Capitato. Ci uniamo tra amici, passiamo un po' di tempo. Si balla? Così cos'ha? Così così. Va bene, allora ti chiediamo di suonarlo. Se suona ti va di farci sentire qualcosa, quello che vuoi. Esatto. Thank you. Avvistamenti, musiche popolari e tradizioni popolari dai luoghi del festival in linea d'aria.